Ok, da adesso ascolta il tuo cuore. Non dare retta mai a niente, a nessuno. E vedrai che arriverai. Credi in ciò che vuoi, credi in tutto ciò che fai. Credi in ciò che sei, credi senza dubbio e vai. Battiti ormai, tanto tu già lo sai. Che un giorno riuscirai, che un giorno arriverai. Scrivi pezzi mentre ignori tutta questa gente. Da perdere non è niente, studia perché è importante. Passeggi per la strada mentre osservi la tua mente. Strutture musicali che passano le tue cuffiette. La mia matita si muove e scrive rime nuove. Le mie emozioni vere creano un criminale. Cosa si può fare? Io ci devo riuscire e devo afferrare ogni attimo e andare. Sto percorso sta per invadere il tutto. Raccolgo ogni frutto, da adesso mi ci butto. Raggiungerò il contratto e tu un pezzo di stronzo. Sorridere con me pugnalando di nascosto. E credo in una frase nel futuro delle cose. Mentre niente in una rima questa voglia di far strage. E prego questo cielo, ci crederò davvero. Ci arriverò sul serio mentre accendo questo cielo. E credo in una frase nel futuro delle cose. Mentre niente in una rima questa voglia di far strage. E prego questo cielo, ci crederò davvero. Ci arriverò sul serio mentre accendo questo cielo. E adesso non vedo, adesso non sento. Faccio questa musica perché dentro la sento. Ho visto mille volte questo tuo lamento. Ho visto mille volte questo tuo viso spento. Lo so esattamente cosa stai pensando. Tu non credi che io qui ci stia quasi riuscendo. Ti stai offendendo mentre me ne sto andando. Ho perso un treno solo andata senza ritorno. Ed io notte e giorno parlo con me stesso. La mia passione è quella che vi scarica nel cesso. E forza ragazzi, credete ancora di più adesso. Forza ragazzi, anche se poi si perde spesso. Ora si ferma questa mia realtà. Esco dal mondo dei sogni e poi si vedrà. La mia maturità sta crescendo e si sa che la nostra società chiude l'opportunità. E poi che fine si fa? Noi vogliamo verità, ma che cazzo ci sarà? Parlano e fanno bla bla. Dimmi come va, va, torna dalla mamma. Il lavoro è là, là, e ancora bla bla. E credo in una frase nel futuro delle cose. Mentre niente in una rima questa voglia di far strage. E prego questo cielo, ci crederò davvero. Ci arriverò sul serio mentre accendo questo cielo. E credo in una frase nel futuro delle cose. Mentre niente questa voglia di far strage. E prego questo cielo, ci crederò davvero. Ci arriverò sul serio mentre accendo questo cielo. Scrivo una frase nel futuro delle cose. Mentre inietto in una rima questa voglia di far strage. E prego questo cielo, ci crederò davvero. Ci arriverò sul serio mentre accendo questo cielo. Ciao onnipotente Pino, io sono un giovane batterista e sono riuscito a creare un gruppo. Ora però non sappiamo come sfondare. Puoi darci qualche consiglio? Cosa vuoi sfondare? Cosa vuol dire sfondare? Se tu pensi di poter fare i soldi con la musica, cambia mestiere, lascia perdere. Ricordati che suonare, già quando vai con i tuoi amici in cantina a suonare, deve essere una goduria, è già quello. Se tu cominci già a pensare ai dischi, a far successo, a quelle robe lì, lascia perdere, lascia perdere. Oppure mettiti a fare musica di merda, come hanno fatto quasi tutti.